Prendo uno spicchio di luna, lo metto nella sangria. Se mi allontano sarà per sentirti dire sei mia. In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione ovunque tu sia. Tutta la vita che aspettiamo, quel sogno di un tramonto sudamericano. Tutta la vita a rimandare, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. La musica, la faia, l'estate, la festa. Sei già nella testa. E allora dimmi com'è.